9 in punto. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori, bentornati a 9 in punto. Oggi parleremo di lavoro. Questa mattina il Consiglio dei Ministri si riunisce, varerà un decreto per aiutare soprattutto i giovani a entrare nel lavoro con facilitazioni, con incentivi. Vedremo poi quanto ci sarà in questo decreto. Ma vogliamo parlare di lavoro anche sotto un'altra prospettiva, anche sotto la prospettiva di muoversi un po' da soli, di cercare di costruire un lavoro, di mobilitare le risorse finanziarie, professionali, umane di questo paese, per affrontare il tema insieme della crescita e del lavoro. Ma prima di entrare in argomento, permettetemi di fare una piccola precisazione che mi hanno chiesto sul programma di ieri. Un ascoltatore aveva chiamato parlando di problemi con la posta certificata e io un po' drasticamente, dato che l'ascoltatore diceva che aveva chiesto al commercialista, il commercialista gli aveva detto di usare un'altra posta certificata, gli ho detto ma casomai cambi commercialista. Ovviamente non era un giudizio né sulla posta certificata nei suoi commercialisti, mi hanno detto che si riferiva l'ascoltatore direttamente al fatto che c'erano delle complicazioni perché la pubblica amministrazione non accetta alcune poste certificate. Ecco un tema su cui non posso e non voglio entrare, e la mia precisazione era sul fatto che, dato che ci sono tanti commercialisti, è anche utile cercare pareri diversi, ma indubbiamente è anche importante sottolineare che la pubblica amministrazione dovrebbe facilitare le cose e non complicarle. Quindi ringrazio l'ascoltatore di aver sollevato questo tema. Mi scuso se ho spostato l'attenzione più al fatto di possibili scelte sul fronte dei commercialisti. Se non ci si fida di un commercialista, si va da un altro. Grande rispetto ovviamente per i commercialisti che fanno tutti il loro dovere e anche grande rispetto per la posta certificata, che ci auguriamo che possa essere un impiego e uno strumento sempre più facile, sempre più comune per facilitare proprio rapporti con la pubblica amministrazione. Detto questo, e scusandomi appunto se sono stato male interpretato o sono male interpretato io un intervento degli ascoltatori, andiamo sul tema di oggi. Il tema di oggi è fare impresa, costruire delle occasioni di lavoro, costruire delle occasioni di crescita appunto per il nostro paese. Abbiamo in studio Carlo Bassi, buongiorno. Buongiorno a voi. Carlo Bassi è amministratore delegato di Back to Work 24, una società del Sole 24 Ore, lo diciamo chiaramente, per questa convergenza di interessi, ma l'interesse è soprattutto quello della società italiana appunto, che deve crescere e che deve trovare delle possibilità di soluzione per i propri problemi, soluzioni certamente non facili, soluzioni che possono nascere però dall'impegno di tutti, da mobilitare le risorse complessive. Allora, Carlo Bassi, che è ideatore e amministratore delegato di Back to Work, qual è la filosofia di questa società? Ma parte proprio dall'idea che ci troviamo in un paese dove abbiamo un grandissimo risparmio privato, si dice 4 volte il debito pubblico, quindi denaro delle famiglie, e abbiamo contemporaneamente tassi di disoccupazione, quella giovanile, ma non solo, che raggiunge livelli record in Europa. Allora la domanda è: come mai tutto questo capitale umano, e non parliamo solo dei giovani ma parliamo anche dei professionisti maturi, di manager che oggi rimangono a casa, non possono rientrare nel mondo del lavoro investendo sul proprio capitale umano, ma anche utilizzando le proprie risorse finanziarie che fino all'altro ieri servivano per il BOT, CCT o per la prima casa o la seconda casa. Oggi è inutile illudersi, il futuro non ci metterà più in condizione di fare i ricchi in casa e poi di trovarci a cercare di uscire per trovare il posto di lavoro garantito da qualche un altro. Ce lo dobbiamo costruire noi. Ecco, ma questo è un problema di carattere giuridico, normativo, la possibilità appunto di mobilitare il risparmio privato in piccole imprese, oppure è un problema di volontà, diciamo, personale, di possibilità personali? Cioè c'è adesso la possibilità concreta di ciascuno di investire appunto in piccole imprese, di aiutare magari queste start-up dei giovani che si muovono cercando di mettere a frutto anche le nuove tecnologie che consentono grandi opportunità a costi abbastanza limitati, metterle a frutto in nuove imprese? Ma io parto dalla convinzione che sia un problema culturale di questo paese, dove, se torniamo al subito dopoguerra, ma è facile questo esempio, l'imprenditorialità era diffusa perché si doveva, era una necessità. Oggi siamo tornati a una situazione post bellica da un punto di vista economico. È inutile pensare che lo Stato possa garantire posti di lavoro a tutti, è inutile pensare che le imprese lo possono fare spontaneamente e naturalmente. Qui apro una piccola provocazione: possiamo anche abbassare, ed è giusto farlo, il costo del lavoro, ma con questo non aumentiamo il fatturato immediatamente delle imprese e quindi la capacità di andare all'estero a vendere di più rispetto a quanto ormai poco vendono in Italia. Quindi è un problema culturale. Io vi do un dato per dimostrarvi questo. In due mesi che Back to Work è nato nel Sole 24 Ore, noi abbiamo raccolto in soli due mesi 880 privati manager, lavoratori che sono interessati e dichiarano con tanto di cifre che devono esporre in modo ovviamente riservato quanto vogliono investire in piccole imprese, in soli due mesi, e aumentiamo di 20 unità al giorno. Questo credo che sia un fattore semplicemente di disponibilità culturale, ancor prima che finanziaria. Ecco, questa è una realtà che riguarda un po' tutta l'Italia, oppure c'è una dimensione, diciamo, del nord che forse è un po' più dinamico e un mezzogiorno che stenta ancora a prendere certe strade? Abbiamo la possibilità anche con questi strumenti di aiutare le regioni che hanno maggiori possibilità e maggiori necessità di crescita? Guardi, io sto vedendo dati che vengono da noi a Back to Work, ma però incominciano a essere rappresentativi, che soprattutto a livello giovanile c'è un grande attenzione anche da parte delle regioni del sud. Molti giovani si dispongono e predispongono, con magari pochi risparmi propri o familiari, a voler avviare delle imprese o a voler entrare in imprese già costituite. Qui volevo fare un piccolo distinguo. Io non ho niente contro le start-up, ma come sempre in Italia tutto diventa di moda. Allora, parlare tanto di start-up al punto che un governo ha fatto delle facilitazioni fiscali e poi non pensare che ci sono milioni di piccole imprese, che di fatto sono tanti milioni di piccole start-up, se le si pensa come attività dove iniezioni di capitale umano nuovo e di risorse possono farle rilanciare, risorgere e anche raggiungere quei tassi dimensionali che un po' anche colpa degli imprenditori stessi negli anni in cui si poteva non è stato fatto. Ecco, perché uno dei problemi è proprio quello di far crescere le imprese. Si parla molto del fatto che la piccola impresa sia la realtà portante dell'industria italiana, dell'economia italiana, però un'impresa che cresce è un'impresa che diventa più solida, un'impresa che riesce ad avere le dimensioni anche per affrontare quei mercati internazionali che sono indispensabili in una fase come questa, una fase come questa in cui il mercato interno è fiacco, naturalmente fiacco, speriamo tutti che si riprenda, che possa riprendersi, però la possibilità di crescita per le imprese è soprattutto sul fronte internazionale. Un'impresa può andare a non solo a esportare, ma a internazionalizzarsi, quindi a cercare nuovi fornitori, a cercare nuove opportunità, nuovi finanziamenti anche internazionali, se ha una certa dimensione. E quindi far crescere le imprese, anche questa è, diciamo, se non altrettanto, quasi più importante del far nascere un'impresa. Sono d'accordo, far crescere un'impresa oggi è la necessità essenziale. Io vi do un dato: in Germania ogni impresa superiore ai 250 addetti ce ne sono 30 sotto i 20, in Italia ogni azienda di 250 addetti ce ne sono 330 sotto i 20. Ma la domanda è: ma perché siamo in questa condizione? Posso dirvi, non è un destino cinico e baro, il governo ladro piove, governo ladro, è perché la nostra imprenditoria, geniale, perché inventa prodotti straordinari e sistemi di produzione clamorosa, poi si limita a voler concentrare tutta l'attenzione sulla propria capacità produttiva. Negli anni in cui poteva, non ha fatto niente per strutturarsi con investimenti, per potersi organizzare all'estero, per fare soluzioni innovative all'interno della gestione, per rinnovarsi da un punto di vista tecnologico, ed è rimasta nana negli anni in cui si poteva crescere. E oggi quel nanismo è la causa della moria di queste imprese, perché non sono strutturate. Iniezioni di denaro privato e soprattutto di competenze. Ci sono 120-150 mila oggi manager con esperienze ventennali o trentennali da grandi multinazionali, che il lavoro probabilmente non lo troveranno più alle stesse condizioni. Beh, aiutiamo questi a entrare facendo i soci, non più solo i manager, nelle piccole imprese, e portiamo una capacità innovativa che altrimenti queste piccole imprese non possono avere. Ecco, io ricordo il numero verde 800 24 00 24 per le vostre chiamate, il 349 238 6666 per i messaggi SMS. Ne abbiamo già alcuni messaggi, uno quando si riferisce alla PEC, alla posta certificata, diceva giustamente grande rispetto per i commercialisti, grande rispetto per la posta certificata, la pubblica amministrazione però dovrebbe darsi una mossa, e su questo siamo d'accordo. Un altro messaggio ci dice: abbiamo dato fondo, abbiamo una piccola azienda, abbiamo dato fondo ai nostri risparmi, non abbiamo debiti ma non riusciamo ad andare avanti. Allora Carlo Bassi, in questa prospettiva anche le piccole imprese possono, di solito si rivolgono alle banche, le banche quando c'è un'impresa in difficoltà stentano a dare credito, stentano, forse è un eufemismo, ecco come può la piccola impresa cercare di finanziarsi anche al di fuori dei metodi tradizionali? A parte che anche qui vorrei fare un attimo un punto, le banche oggi con la scusa di Basilea si sono tagliate fuori dall'accesso al credito il 90% delle piccole imprese. Io dico una scusa, non perché Basilea non si debba applicare, ma perché il metodo con cui lo si applica inevitabilmente pone fuori dal mercato tutte queste piccole imprese, e siccome in queste piccole imprese c'è quasi l'80%, 90% del nostro PIL, un problema lo dobbiamo risolvere. Noi abbiamo pensato che debba essere l'immane immensa quantità, montagna di denaro privato. Attenzione, non è solo del singolo, io vi do dei dati. Da informazioni che io ho, ci sono dentro Intesa San Paolo, grandi gruppi bancari, o dentro Unicredit, qualcosa come 70-80 miliardi di conti correnti e denaro contante liquido. Allora, non è tanto la gente singolarmente che deve prendere l'iniziativa, ma se anche dentro gli istituti bancari, oltre a rappresentare sempre il solito fondo di investimento straniero con percentuali di tasso di crescita che non si incominciassero a dire che forse vale la pena che il denaro privato gestito da terzi e da professionisti possa reintrodursi nelle aziende, forse un veicolo diverso dalle logiche del finanziamento puro o del mutuo o di quant'altro lo troveremmo. Faccio un altro dato: le fondazioni bancarie italiane, solo il 2,7% su circa 60 miliardi di euro gestiti vanno ai fondi di private equity, quindi alla produzione. Il resto è speculazione, scusatemi il termine, certo, un po' duro. Allora, se non si cambia culturalmente e quindi non si rimette in moto il meccanismo del credito pensando che debba andare alle imprese e al lavoro, aggiungo imprese che contemporaneamente si presentino non con le stesse gestioni che facevano prima, perché con quelle, io dico sempre agli imprenditori che vengono a Back to Work, se siete sempre quelli io il denaro non ve lo darei comunque anche se l'avessi. Dovete rinnovare, inserire capitale umano fresco, nuovo, che vi porti a fare quello che non avete fatto negli anni in cui lo potevate fare. Grazie Carlo Bassi, ricordo amministratore delegato di Back to Work 24. Io sentirei due casi concreti, due imprenditori un po' diversi dal solito. Si Sun, se ho detto bene, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Adesso si chiama che Luigi Sun, ma dal nome è chiaramente cinese, un imprenditore titolare di Union Trade, ha vinto il MoneyGram Award 2013, il premio all'imprenditoria immigrata in Italia. Ecco, allora Luigi Sun, come ha creato questa impresa e come è cresciuta la sua impresa? Allora, la mia impresa è nata nel 1985 a seguito di un'attività italiana che faceva questa distribuzione di prodotti alimentari ai ristoranti. Ecco, io ne ero cliente, poi sono diventato pian piano molto vicino alla proprietà e se non altro. Poi successivamente ho rilevato la parte della commercializzazione. Ecco, è nata bene o male questo nell'85. E poi è cresciuta dall'85 in poi? Sì, noi abbiamo fatto, è cresciuta sempre in questi 27 anni, non abbiamo mai avuto un fatturato in decremento, ecco, siamo sempre riusciti a mettere un segnale positivo davanti. E quali difficoltà maggiori avete avuto in questa crescita? Avete avuto un accesso al credito facile? Avete magari avuto un accesso al credito, mi permetta, un po' di favore all'interno della comunità cinese? No, questo assolutamente no, anche queste sono le solite leggende che girano all'interno delle varie comunità, ecco, no, noi ci siamo avvalsi comunque del credito ai vari istituti bancari, ecco, se non altro nei primi anni abbiamo avuto comunque le difficoltà che hanno tuttora tutte le aziende, ecco. Poi ovvio, se le aziende vanno bene, i fatturati sono buoni, i bilanci sono buoni, le banche ti vengono dietro, ecco, se non fossero diventa in questo momento soprattutto molto difficile. Quindi voi siete cresciuti un po' anche sull'onda della maggiore domanda per i prodotti alimentari appunto cinese, stranieri, anche sull'onda appunto della crescita dei ristoranti etnici in Italia? Sì, assolutamente, questa è stata sicuramente una delle parti più importanti. Ecco, poi seguendo anche l'evoluzione delle varie comunità straniere che si sono formate, noi siamo sempre andati a cercare di portare i prodotti alimentari di queste origini, per cui noi non solo siamo nel settore cinese o giapponese, però abbiamo seguito l'evoluzione della comunità filippina, per dare un esempio, di quella singalese, e da questi paesi abbiamo sempre importato prodotti per questo tipo di popolazione. Qual è la difficoltà maggiore che ha trovato nel suo fare impresa in Italia? Bah, difficoltà maggiori, forse secondo me ci sono leggi per quello che riguarda l'assunzione del personale che sono comunque abbastanza complicate, ecco. Spesso e volentieri ci si trova magari a non fare delle scelte in funzione poi a un discorso di diciamo non esiste meritocrazia, per cui se io mi prendo una persona con me e poi da quello che posso fare magari metterla in prova, poi successivamente la devo assumere a tempo indeterminato. Ecco, questo potrebbe essere una difficoltà che oggi spinge agli imprenditori di non assumere. Io ho 50 persone che sono comunque tutte assunte a tempo indeterminato. Grazie, Luigi Sun, per questa testimonianza molto significativa, direi anche nella sua parte finale. Andrea Laus, buongiorno. Andrea Laus è un giovane amministratore delegato di Life Like, un'azienda del tutto diversa, si occupa di alta tecnologia. Allora, ci spieghi un attimo che cos'è questa Life Like, di che cosa si occupa e dove lei ha creato questa azienda? Allora, intanto Life Like è una società che è nata in Svizzera recentemente grazie all'immissione di capitale da parte di una fondazione istituzionale del Canton Ticino. Noi ci occupiamo di sviluppare simulatori di comportamento, sostanzialmente costruiamo delle macchine multimediali interattive online, quindi delle specie di giochi interattivi che aiutano le persone a imparare a comunicare meglio. E devo dire, lo facciamo con un certo successo di pubblico per il fatto probabilmente che ormai la capacità di comunicare delle persone è diventata forse l'unico elemento competitivo che individui e aziende hanno per rimanere in un mercato che concede sempre meno spazio a tutto il resto. Ecco, ma perché questa azienda è nata a Chiasso, mi sembra, nel Canton Ticino, a pochi metri dalla frontiera italiana, ma dalla parte svizzera? Beh, probabilmente perché dalla parte svizzera è un po' più facile fare impresa. Io sono lì da poco tempo, però devo dire che l'esperienza che sto facendo è di estrema facilità nel fare qualunque tipo di attività, che dalla parte italiana invece rappresenta sempre più un'esperienza di giocare una partita con il campo in salita. Questo soprattutto per i rapporti con la pubblica amministrazione, oppure con le banche, oppure con i giovani, con le assunzioni, oppure con i sindacati? Ma devo dire un po' tutto, probabilmente un mito che sfaterei è l'elemento fiscale, nel senso che quando si parla di Svizzera o di estero in generale la prima cosa che viene in mente è vai da un'altra parte per pagare meno tasse, è assolutamente un falso mito. In realtà un'impresa oggi cerca facilità nei rapporti con la pubblica amministrazione, con la burocrazia, con i sindacati, perché no, con le banche, e devo dire che in altri posti al di fuori dell'Italia è tutto molto più semplice, e per chi fa impresa questo fa una differenza enorme. Cioè l'impresa è vista come qualcosa di positivo, spesso in Italia l'impresa è vista come un male necessario. Sì, mi riallaccio a quello che diceva prima il suo ospite, siamo in un periodo post bellico, è molto vero secondo me, solo che alla fine della precedente guerra mondiale i nostri nonni emigravano con la valigia di cartone. Oggi devo dire che paesi esteri, ma non solo la Svizzera, anche Francia, Inghilterra e Stati Uniti, invece ci accolgono addirittura con il tappeto rosso, sono tutti molto affamati, specialmente in un contesto di alta tecnologia come quello dove noi viviamo, e devo dire che davvero c'è grande accoglienza. E la grande accoglienza è ben accetta soprattutto laddove ci sono condizioni migliori per poter operare. 9 in punto. Bentornati ai nostri ascoltatori, stiamo parlando di fare impresa, di come aiutare le imprese italiane a nascere, ma soprattutto a crescere, a svilupparsi in questa realtà, come cercare e trovare occasioni di lavoro, come costruire queste occasioni di lavoro. Ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora con Carlo Bassi, amministratore delegato di Back to Work 24, abbiamo alcuni ascoltatori in linea. Giulio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Volevo dire questo, che è verissimo che la chance che si può offrire per riprendere a lavorare in questo paese è dare modo a chi vuole fare l'impresa, diciamo una piccola impresa, per partire. Il problema qual è? Che nel nostro paese si chiedono, lo Stato chiede soldi che non si sono guadagnati. Quindi chi inizia oggi un'impresa già deve cominciare a pagare solo per esistere, e tra un anno probabilmente avrà 20.000 euro di debiti verso i fornitori, verso lo Stato, verso l'INPS, perché non esiste nessun rapporto fra quello che io produco di reddito e quello che mi viene chiesto di tasse e di costi. Grazie Giulio da Roma per questa testimonianza. Pasquale da Foggia, buongiorno. Buongiorno dottor Spezia. No, veramente sono allora, Fabi Spezia, torna lunedì prossimo. Comunque mi dica. Scusi, volevo portare una testimonianza significativa, perché io sono un disoccupato da lungo termine. Infatti da più di 2 anni sono disoccupato, lavoravo prima in un'azienda che Schenkerry e facevo il magazziniere, ragioniere, poi dalle nostre parti bisogna essere polivalenti. Cosa è successo? Che a causa della crisi questa azienda è chiusa e poi ho avuto possibilità di usufruire della legge 407/90, quella che permette, come sa, alle aziende di assumere avendo degli sgravi fiscali da parte loro, quindi lo Stato praticamente non fa pagare i contributi. Il problema è che dalle nostre parti, siccome le aziende sono in difficoltà con le banche che non rilasciano più credito, quindi non, chi ha questa legge praticamente è fine a se stesso, quindi lascia il tempo che trova, e coloro che magari vogliono avere una possibilità lavorativa non ce l'hanno, lavorano in nero come magari mi capita saltuariamente, e quindi non ha possibilità né di lavorare e né di andare altrove a vedere, perché poi le agenzie interinali purtroppo non ti aiutano, sono come gli uffici di collocamento. Grazie. Indubbiamente la situazione del lavoro, anche appunto quello che lei dice, ci sono delle leggi che agevolano, ma il cortocircuito che poi ci può essere tra le agevolazioni e il fatto che poi il credito è scarso, le aziende che non vanno bene faticano ad avere il credito, e quindi anche a sfruttare queste agevolazioni certamente complica le cose. Luigi da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. La mia attività chiuderà quest'anno. Io opero nel settore dell'edilizia e le posso dire che le aziende che io seguo, che ho seguito fino ad oggi nel campo della piegatura della lamiera, rondaie eccetera, sono ben attrezzate, si sono anche indebitate, però nel fare lavori con uno Stato disonesto non vengono pagate. Non venendo pagate devono licenziare, vanno in crisi, chiudono e quant'altro. Quindi di cosa parliamo? Bisogna essere ben strutturati per fare cosa? Per non essere pagati? Beh, questo è il problema della pubblica amministrazione che non paga, è un problema aperto, se ne è parlato a lungo, il paese sembra paradossale, ci vuole in Italia una legge perché la pubblica amministrazione rispetti i suoi doveri e mantenga appunto i contratti aperti. Ma Carlo Bassi. Mi piacerebbe però chiedere all'ultimo ascoltatore. Il problema della crisi dell'edilizia è un problema dovuto allo Stato, alla burocrazia indubbiamente, o anche al fatto che di colpo negli ultimi 3 anni i mutui si sono stati tagliati del 50-60%, e per avere un mutuo una coppia giovane che vuole una casa deve metterci lì altrettanto dei soldi in garanzia? Cioè il problema qui non è solo e sempre la burocrazia, lo Stato, il costo del lavoro, tutti i problemi esistenti che ci portiamo a casa, però attenzione, cerchiamo anche di individuarli, perché se noi pensiamo che togliendo l'IMU o che lo Stato ci paga quello che ci deve pagare, da domani si ricominciano a vendere le case, è un errore madornale, perché tanto le persone che le potrebbero comprare non se lo possono permettere. È un po' come le aziende che possono assumere anche con agevolazioni, ma poi non fanno con questo il maggior fatturato. Infatti, come diceva anche l'ascoltatore, il problema è di dare una prospettiva, in fondo di creare le condizioni anche, possiamo dire usando termini grossi, antropologiche, cioè di umane, per guardare con una certa speranza e quindi con la prospettiva anche di mettere in azione le risorse che ci sono, Carlo Basso. Ma sì, e poi chiamando veramente a un momento di vera corresponsabilità tutto il sistema. in Italia giustamente il dito è perennemente puntato verso la politica, però la politica deve fare la sua parte, lo devono fare le istituzioni bancarie, lo devono fare i sindacati, lo devono fare anche le imprese e le associazioni delle imprese, perché il cambiamento culturale di cui si diceva all'inizio, cioè innovare, portare le imprese all'estero, io prima lo dico un po' con sorriso, ascoltavo un imprenditore cinese, quanti imprenditori italiani parlano l'inglese come il cinese parlava l'italiano e quindi quanti hanno sono attrezzati loro o dipendenti loro per andare nei mercati esteri a vendere i propri prodotti? Vi dico io una percentuale, si tende verso il 20%. Oggi c'era un dato sul Corriere della Sera, nelle aziende al di sotto dei 20 addetti, 1 su 10 usa almeno una sola volta il computer alla settimana, è un dato Eurispes, quindi non è un dato così. Allora attenzione, quando parliamo di queste cose, la burocrazia, il costo del lavoro, le tasse, tutto, ma quanto ci siamo preparati noi per affrontare un mercato che è cambiato? Indubbiamente, ci vogliono risorse umane, ci vuole volontà, ci vuole capacità, questo è estremamente importante. Saluto Giancarlo Vinacci, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno amministratore... a tutti gli ascoltatori. Grazie Giancarlo Vinacci, amministratore delegato di Mediofima, un'azienda dell'ambito, che agisce nell'ambito della Confcommercio, che ha attuato un'iniziativa per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Ci vuole spiegare in cosa consiste? Sì, beh, intanto noi nasciamo come azienda rivolta al mercato retail. Però insomma le difficoltà di questi ultimi anni ci hanno indotto ad allargare la nostra visione anche al supporto delle piccole e medie imprese. Per cui abbiamo iniziato a porci come mediatori, c'è stata una riforma importante della mediazione creditizia nell'ultimo anno che discende da una norma europea, a supporto di quelle piccole e medie imprese che trovano molta difficoltà ad andare presso gli istituti ed avere finanziamenti per qualunque tipo di attività. Questo lo facciamo con una struttura che è diffusa sul territorio, la nostra è una società che non ha scopo di lucro e lo facciamo soprattutto con dei metodi che sono innovativi rispetto, qualcuno mi perdonerà se dico, il sistema bancario che in molti casi è ancora antiquato in Italia. Un esempio per tutti, se lei va in Inghilterra, un'azienda è supportata da una banca al massimo due, da noi ne hanno 7, 8, 9, questo perché? Perché chi fa banca oggi non guarda qual è il progetto dell'azienda, ma cerca di cautelarsi, frazionano il rischio, ma nessuno sposa veramente l'idea. Beh, una piccola impresa che viene da noi, se ci sono i presupposti, noi prepariamo un information memorandum, vediamo quali sono le destinazioni del denaro che lui richiede e cerchiamo di seguirlo giorno dopo giorno, dando anche un servizio alla banca di monitoraggio. Lei consideri solo che una banca che oggi viene contattata da un cliente per un finanziamento chiede i bilanci. I bilanci sono quelli dell'anno scorso. Quindi sulla base dei bilanci di un anno o di un anno fa scaduti su una visione oggi, arriveranno tra qualche mese a concedere un finanziamento senza poi sapere se viene utilizzato effettivamente per l'anticipo fattura o per pagare dei debiti, insomma quando se ne accorgono è tardi. Quindi da un lato le banche dovrebbero entrare più nel merito e dall'altro lato dovrebbero monitorare costantemente le aziende con cui lavorano. Non lo fanno perché non entrano nel merito dell'attività dell'azienda. Quindi, questo è un problema tipicamente italiano. Quindi un problema di intermediazione che diventa anche consulenza e che fa da supporto sia all'impresa sia alla banca. Direi di sì, assolutamente sì. Più che di intermediazione direi di mediazione creditizia. C'è stato un cambiamento profondo. Fino a un anno fa c'erano 10.000 società di mediazione creditizia e più di 100.000 operatori ditte individuali. La riforma ha portato ad azzerare le ditte individuali, quindi le persone fisiche come mediatori creditizi, e le società che oggi fanno mediazione, che sono vigilate, quindi sono entrate nel testo unico bancario, non sono più di 200. Di queste 200 in Italia, meno di 5 hanno una struttura che copre tutto il territorio nazionale. Per cui i nuovi mediatori creditizi, questi pochi, poi nel nostro caso siamo l'unico soggetto totalmente istituzionale, noi siamo partecipati da Concommercio, da una grande banca e da Allianz, secondo me le piccole imprese dovrebbero buttare l'occhio su qualcuno che dà una mano a capire cosa stanno facendo, cosa vogliono fare, e non sentirsi dire le do il fido, ma lei a titolo personale che cos'ha? problema questo che ha portato al perdurare della sottocapitalizzazione di tutte le aziende italiane. Ecco, Carlo Bassi, un'osservazione o una domanda per Giancarlo Vinacci, amministratore delegato di Mediofima? Ma innanzitutto concordo pienamente sull'analisi del meccanismo con cui le banche approcciano le piccole imprese. Guardano al passato e non sanno analizzare minimamente né il business, né le capacità dell'imprenditore, né la capacità di sviluppare un progetto innovativo. E questo è il vero dramma che in questo momento incombe. Ne aggiungerei un altro: i costi che le banche applicano al privato cittadino, così come le imprese, scusatemi, forse valgono più dei costi del personale, molto spesso su cifre importanti. Dopodiché è importante che ci sia una struttura che sul territorio supporti le piccole imprese, anche un po' professionalizzandole. Noi lo facciamo a nostra volta e mi piacerebbe poi parlarne, perché anche noi alle piccole imprese che si stanno iscrivendo a Back to Work, che siamo arrivati in 2 mesi a 700 imprese piccole, le aiutiamo organizzandogli noi il lavoro, l'info memorandum o il selling memorandum per potersi presentare a potenziali privati investitori. In questo caso vorremmo tanto poterle aiutare anche ad affrontare gli istituti di credito, che spesso hanno, uso un termine, scusatemi, forse un po' l'ignoranza, cioè quando arrivi all'agenzia il signore ti guarda e non sa valutare chi, certo, tu sei e l'impresa che fai. Guardano molto i numeri e un po', certo, meno le persone. Certo. Un'ultima considerazione, Giancarlo Vinacci, prima di salutarci. Prego. Prego, prego. No, volevo appunto una sua considerazione finale su come giudica appunto anche questa realtà del credito, ma complessa, ma su cui si può comunque intervenire. Ma guardi, io credo che il mondo sia cambiato velocemente, che certe posizioni di potere che avevano alcune banche, non tutte, nei confronti delle imprese, deve assolutamente cambiare. La banca deve tornare a far banca. Io ho una lunga esperienza in banca e ricordo che agli inizi avevo la mia figlialina dove facevo raccolta e impieghi. Tot di raccolta mi consentiva di fare tot di impieghi e decidevo io, che avevo una visibilità sul territorio, conoscevo chi era serio e chi non era serio. Oggi molto spesso i titolari delle filiali sono stati trasformati in passacarte, possono fare raccolta ma anche per dei piccoli impieghi devono rivolgere a chi non ha più il contatto fisico, la conoscenza dell'imprenditore, e l'Italia è un paese fatto di piccoli imprenditori, le grandi industrie forse ci hanno creato qualche problema in passato. 9 in punto. Eccoci nella parte conclusiva del nostro programma. Stiamo parlando di fare impresa, di come aiutare le imprese a nascere, soprattutto a crescere, come aiutare le imprese a creare posti di lavoro. Fabrizio da Torino, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo fare una premessa innanzitutto. Questi politici che abbiamo noi in Italia, questi signori qua, ci sono personaggi che non hanno mai fatto un'ora di lavoro e fanno delle proposte per cercare di creare posti di lavoro. Vabbè, è il loro dovere, quindi speriamo che facciano delle proposte serie. Venga dunque, Fabrizio, senza le premesse. Quello che volevo dire è questo: come fanno a creare posti di lavoro con le imprese che stanno andando via dall'Italia? C'è un'emorragia di imprese pazzesca, con una tassazione che non ha precedenti in nessun paese al mondo quasi. Poi, quel che volevo dire ancora è questo: ci sono delle aziende in Italia che assumono personale straniero immatricolando, io parlo del settore trasporto, immatricolando nei paesi stranieri, pagando le tasse nei paesi stranieri, e esercitano in Italia facendo concorrenza sleale ai poveri imprenditori che qua in Italia sopperiscono dalle tasse. E lo Stato non fa nulla, è questo per aiutare i poveri cittadini italiani. La ringrazio. Grazie. Ciao. A lei, grazie per questo atto di accusa. Indubbiamente le aziende delocalizzano anche per cercare condizioni di migliore competitività. È una tendenza che tuttavia sta cambiando negli ultimi anni. Si è visto che la delocalizzazione è pura e semplice, non è conveniente. Molte aziende stanno addirittura tornando in Italia. Si delocalizza ormai se si vuole produrre vicini ai mercati dove si vende, quindi per una ragione economica, e indubbiamente anche perché in Italia ci sono delle condizioni operative che in altri paesi non ci sono, che aggravano appunto le condizioni delle imprese. Ma questo è una cosa che diciamo sempre e continuiamo a dire, che dobbiamo continuare a dire, ma che a un certo punto dobbiamo anche farcene una ragione e cercare di rimboccarci le maniche e cercare di superare anche le difficoltà. Corrado da Trento, buongiorno. Sì, pronto, eccoci qua, buongiorno. Volevo portare all'attenzione il mio caso. Io ho da poco costituito un'impresa che aiuta le piccole e medie imprese trentine che per struttura o per scarsi mezzi finanziari vorrebbero in qualche modo internazionalizzare la loro produzione, ma non ci riescono. Allora noi aiutiamo queste aziende ad affacciarsi ai nuovi mercati. quello che io volevo anche... Pronto? Sì, pronto, ci dica, c'è stata una piccola interruzione. Eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti. Chiedevo, dicevo appunto questo, noi abbiamo appena costituito un'azienda che in qualche modo aiuta le imprese trentine a internazionalizzarsi, quindi a proporre i loro prodotti al di fuori del mercato nazionale, ma che per questioni strutturali dell'azienda stessa, finanziarie, economiche, non riescono a farlo. Quello che io in qualche modo portavo all'attenzione è che ogni volta che io con la mia azienda di intermediazione ho provato ad interfacciarmi con le istituzioni per poter ottenere dei fondi che sono già previsti da alcune leggi provinciali, comunali ed eventualmente anche europee o agli istituti di credito, in qualche modo vengo visto come un figlio di un dio minore e non vengo riconosciuto come impresa di intermediazione come un apportatore di PIL, che invece sarebbe molto importante questo per creare anche lavoro in tutte quelle strutture, come dicevo prima, che in realtà non potendo, non volendo, non riuscendo, avrebbero invece una capacità, come diceva il dottor Bassi anche prima, di poter guardare anche oltre i propri confini e creare una dare così un impulso anche alla propria produzione, che invece langue in magazzini di invenduto semplicemente per il fatto che non hanno una possibilità di guardarsi attorno. Ecco, una possibilità, indubbiamente, la ringrazio di questa testimonianza, anche perché appunto le imprese, se riescono a trovare anche dei luoghi comuni, delle strutture comuni, delle strutture anche di consulenza che possono mettere insieme alcune imprese, aiutarle in questa internazionalizzazione che è fondamentale e certamente positiva, senza entrare poi nel merito dell'iniziativa, a cui auguro comunque successo. Francesco da Bari, buongiorno. Buongiorno, salve. Io volevo portare all'attenzione questo discorso qua. La mancanza di... cioè c'è una crisi secondo me, perché il datore di lavoro quando assume una persona è talmente esoso, diciamo, i soldi che deve pagare, che non c'è più un lucro genuino. Io parlo che una persona perché assume? Perché vuole anche guadagnare, ma siccome paghiamo talmente tanto le tasse, le cose, allora uno non cresce, quindi non è una questione di arrivare, di pensare al futuro, ma non riusciamo neanche a tenere il presente, manco il passato. Ecco, coraggio, cerchi di tenere il presente, cerchi di tenere il passato, lei ha qualche dipendente, ne assuma qualcuno, cerchi di avere fiducia appunto del futuro, perché poi le persone possono dare comunque del valore aggiunto. Sì, l'ultimo ascoltatore, grazie mille, abbiamo poco tempo, mi scusi, Marco da Bologna, buongiorno. Buongiorno, lavoro in banca e mi permetto anche un ruolo dirigenziale di intervenire, perché ho ascoltato con interesse gli interventi dei protagonisti della mattinata. Purtroppo lo scenario è differente, nel senso che oggi la specializzazione dei professionisti che si avvicinano alle imprese, parlo dei miei colleghi, parlo dei gestori che seguono con attenzione le aziende, devono proprio guardare al futuro, perché il passato è storia e oggi le aziende devono avere dei processi, dei progetti chiari e precisi per poter avere accesso al credito. Sono le stesse aziende che fanno selezione del credito e fanno selezione dei clienti, perché l'affidabilità e la qualità e la possibilità di ottenere i pagamenti da parte dei loro clienti è determinante, perché poi noi il compito principale è quello di restituire i soldi, certo, ai nostri risparmiatori. Quindi con grande attenzione, oggi non si può più parlare del vecchio direttore d'agenzia che io ho fatto 30 anni fa. Facevo 30 anni fa, era tutta un'altra attività. Oggi si parla di Basilea 2.5, ci sarà Basilea 3, per le quali le banche e il sistema bancario dovrà essere pronto per il 2019. Lo scenario è molto più complesso e quindi la vicinanza e la responsabilità sociale che noi abbiamo banche oggi nei confronti proprio dell'impresa è quella di portarle ad avere dei bilanci sani per potersi presentare ed ottenere anche a sistemi terzi come i professionisti con i quali lei interloquiva si attivano per poter avere accesso a crediti differenti, perché proprio l'Italia oggi è un sistema che accede esclusivamente al sistema bancario, non ci sono banche a carattere di investment banking che possono intervenire nei capitali sociali delle aziende. Ecco, grazie mille, grazie per questo suo intervento. Abbiamo 30 secondi per far concludere Carlo Bassi. Innanzitutto sull'ultimo del direttore di banca, entriamo in qualsiasi banca, in questo momento agenzia, la prima cosa che ti chiedono è i bilanci degli anni passati, non ti guardano su quello che è il tuo progetto futuro. Sull'amico del Trentino, un po' mi viene l'orticaria quando sento mi voglio affidare per trovare i fondi europei e così via. Innanzitutto nelle imprese ci si può organizzare per andare all'estero anche senza fondi europei, perché uno dei mali di questo paese è che si è pensato che tutto dovesse essere sempre finanziato da altri e non da noi stessi. La logica di Betuoro è portare persone con risparmi privati a investire nelle aziende prima ancora che andarle a cercare al di fuori. Mobilitare le risorse che ci sono, risorse finanziarie, risorse umane di questo paese è molto ricco. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, ringrazio Carmelo Rauricella in regia e Alessandro Marco Tulli in redazione. L'appuntamento è per domani. Ricordati! Mancano 5 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.